1999, in occasione del 150° anniversario della Repubblica Romana, come Regione Lazio, io all'epoca ero al capo ufficio degli studi storici, facemmo una manifestazione in tutta la Regione Lazio, portando insieme all'Archivio di Stato una bella mostra, e accompagnata da conferenze e accompagnata da studi locali ai quali avevamo dato l'input, e questa l'abbiamo portata in giro per tutta la regione e fu un grandissimo successo, perché soprattutto il contatto con le scuole fu abbastanza esaltante. Quindi ci sono le radici di questa passione, e quindi il collegamento l'abbiamo già trovato. Allora, intanto è la seconda volta che faccio una presentazione campestre, diciamo, in mezzo al prato, perché già la prima l'ho fatta proprio nel parco del Gianicolo, a Villa Panfili. Non so se voi conoscete il Gianicolo, se qualcuno ha cognizione di questa zona di Roma. Il Gianicolo è la parte più alta di Roma ed è il luogo dove si è svolta tutta questa vicenda, una vicenda appassionante, e lì in quei luoghi c'è la memoria. A parte il fatto che c'è un bel parco dove c'è la statua di Garibaldi con tutte le erme di tutti i patrioti che parteciparono, sono circa un centinaio di erme che abbelliscono il parco del Gianicolo. E dunque, perché questo? Intanto vorrei chiarire il titolo: perché l'alba della nazione? Perché secondo me, ma credo che siano tutti d'accordo, secondo me proprio nel 1849 a Roma nasce, si consolida, prende corpo l'idea di una unità nazionale, di uno Stato italiano. Non è la prima volta che avevamo episodi di questo genere durante il Risorgimento. Dopo il congresso di Vienna del 1815 cominciano un sacco di manifestazioni. Consideriamo che il dominio napoleonico aveva cominciato a cementare negli italiani una forma di unione nazionale, perché per esempio soprattutto nella Repubblica Cispadana e nella Repubblica Cisalpina c'erano state delle legioni che avevano combattuto con Napoleone con il tricolore italiano, quindi già si era cominciato a diffondere un po', però era una cosa molto slegata e soprattutto molto localizzata. I primi avvenimenti che possiamo cominciare a considerare come propedeutici a un'idea nazionale cominciano già con i moti del 1820 nel Napoletano, quando un gruppo di cavalleggeri di San Sannola insorge, va a Napoli, occupa Napoli perché vuole imporre la Costituzione democratica del 1812. Viene mandato Guglielmo Pepe contro i rivoltosi, ma Guglielmo Pepe fa subito invece amicizia con i rivoltosi, prende addirittura lui il comando. Poi nel 1821 insorge Alessandria con il Santore di Santa Rosa, tutti nomi che probabilmente ricorderete dagli studi di storia che avete fatto da giovani. Il Santore di Santa Rosa addirittura fa innalzare sulla fortezza di Alessandria il tricolore italiano. Però tutte queste non possiamo dire che portano con sé un'idea di nazione italiana, perché sono molto localizzate. I napoletani pensano a Napoli, i piemontesi pensano al Piemonte e via dicendo. Quello che succede nei cinque mesi a Roma, che vanno dalla proclamazione della Repubblica Romana 8 febbraio 1849 alla sua caduta 3 luglio 1849, in questi cinque mesi invece fermenta fortemente un'idea di nazione italiana, anche perché qui a Roma vengono veramente da tutta l'Italia. Qui non ci sono connotati localistici, ci sono i romani, che sono Rosselli, che diventerà il comandante in capo dell'esercito della Repubblica, c'è Armellini, uno dei tre triumveri, c'è Ciceruacchio, uno dei capipopolo della rivolta romana, ma poi se andiamo a vedere vengono da tutt'altra zona. Abbiamo i Liguri con Garibaldi, Mazzini, Mameli, abbiamo i Lombardi con Manara, i fratelli Morosini, Dandolo, Medici, abbiamo i Veneti, abbiamo gli Emiliani, i Romagnoli, i Toscani, i Napoletani con Pisacane, i Calabresi con Nicotera, quindi veramente c'è tutta l'Italia a Roma. Tant'è vero che quando le cose cominceranno ad andare male e Garibaldi vuole uscire da Roma per portare la guerra per bande nella regione. Mazzini lo stoppa, dice no, noi non possiamo uscire da Roma perché Roma è il simbolo dell'Italia, è diventata il simbolo dell'Italia, quindi si deve rimanere qui, si vive o si muore, si resiste o si perde. Quindi Roma nel 1849 diventa veramente il fulcro della identità nazionale italiana, da qui si sviluppa tutto ed è sorprendente perché poi qui verranno una gran quantità di corrispondenti, di giornalisti corrispondenti dall'estero e illustreranno le vicende della Repubblica propagandandole in tutta l'Europa e per esempio qui a Roma comincia a formarsi la leggenda di Garibaldi, cioè Garibaldi aveva già combattuto nel Sud America, lo sapete, l'era dei due mondi e quant'altro, però un conto è combattere contro le bande sudamericane, un conto è combattere contro la Francia che aveva l'esercito più potente d'Europa e qui veramente la fama, l'eroismo, l'abnegazione, il coraggio, la capacità tattica di Garibaldi risaltano fortemente e sono propagandate in tutta l'Europa. Garibaldi diventerà un mito. Nel 1864, quando Garibaldi andrà a Londra, sarà accolto da una folla di 500.000 londinesi che lo bloccano alla stazione e non lo fanno più camminare. Per andare all'albergo, che era distante 800 metri, impiegherà 5-6 ore. Fu una cosa impressionante. Un altro motivo per cui ho avuto, insomma, la voglia di scrivere questo è quello di contrastare anche un certo revisionismo storico che sta facendo apparire il Risorgimento come un momento di non di grande eroismo ma di personaggi opinabili e quant'altro. Addirittura la figura di Garibaldi viene rappresentata come quella di un avventuriero, di un mercenario, ed è veramente una cosa scandalosa se si considera che Garibaldi ha vissuto sempre in condizioni economiche molto precarie. Lui acquistò l'isola di Caprera, la prima metà, perché l'isola era proprietà di un inglese, e la prima metà la poté comprare grazie a un'eredità che gli lasciò il fratello. Dopodiché l'altra metà fu acquistata con i soldi che venivano dal lavoro degli operai inglesi, i quali misero da parte il ricavato di una giornata di lavoro e tutta la cifra fu devoluta a Garibaldi per acquistare la seconda metà. Quindi, voglio dire, questo personaggio non aveva assolutamente niente di suo. E quando a Teano lui consegnò l'Italia al re Vittorio Emanuele II, questi gli fece delle offerte fantastiche, castelli, casati, doti per la figlia, una nave e quant'altro, e lui non ha voluto assolutamente niente. Quindi stiamo parlando di personaggi che, insomma, questo revisionismo storico molto sciatto, molto squallido, che comincia ad abbattere quello che è stato uno dei periodi più belli e più splendidi. Cioè, noi ci troviamo davanti a personaggi che hanno un rilievo storico, politico, morale di grandissima levatura. Cioè, se voi fate una passeggiata appunto al Gianicolo e vedete le erme che ci stanno lì, ognuno di quelli ha alle spalle delle storie fantastiche, su ognuno si potrebbero scrivere libri di storia, nomi che voi non avete mai sentito, nemmeno conoscete, vi ne butto uno a caso che sta nel libro: Domenico Cariolato. Chi era? Avrebbe detto Manzoni. Chi era costui? Questo Domenico Cariolato comincia a fare la guerra a 12 anni. Quando si combatte nel 1848, nella prima guerra di indipendenza nel Veneto, lui si mette con le truppe italiane che stanno combattendo appunto nella zona di Vicenza. Poi vengono sconfitti, scappa, va, e poi l'anno dopo viene a Roma a combattere per la Repubblica Romana. A 12 anni viene fatto prigioniero dai francesi. Dopodiché scappa e lo ritroviamo in tutte le guerre del Risorgimento, fino al 1870, l'ultima guerra che farà Garibaldi a Digione, addirittura in soccorso dell'esercito francese che era stato distrutto dai prussiani. L'unica vittoria francese, tant'è vero che poi lui fu eletto deputato al congresso francese, ma ci furono tutta una serie di clamori contro, tant'è vero che lui mette le dimissioni e ci furono dei scrittori enormi come Zola che addirittura si dimisero per protestare. Ecco, sto parlando di personaggi che non troveremo più. Stavo leggendo un altro libro su questo libro. Nel 1867, quando si cercò nuovamente di prendere Roma, la conclusione fu la tragica vicenda di Mentana, a Villa Grodi ci fu uno scontro tra garibaldini e truppe pontificie, non so se qualcuno di voi si ricorda della vicenda di Villa Grodi. E c'è un libretto che ha scritto un certo Pio Ferrari di Udine, il quale decide di partire come volontario per venire a combattere per Roma. Dato che non vuole creare preoccupazione alla madre, perché questa è gente che ha 20 anni, quindi sono figli di famiglia, insomma, non vuole dare preoccupazioni, parte con il vestito da sera con cui è andata a una rappresentazione, c'ha questo abito da sera, con questo si mette sul treno, parte, si farà tutta la campagna romana sempre con questo vestito. Cioè, questo per dire che tipo di personaggi incontriamo, no, in questa storia, cioè personaggi di una levatura, come dicevo, morale soprattutto, di enorme, che non incontreremo più, non incontreremo mai più. E in questi 5 mesi appunto di vita della Repubblica Romana avvengono fatti importantissimi. Intanto il fatto più eclatante che sgorga, a parte la difesa epica che fu fatta, è la Costituzione repubblicana. Cioè, mentre i francesi bombardavano Roma, a qui vorremmo aprire una parentesi, i francesi una volta, qual era la strategia francese? Era quella di attaccare sul Gianicolo, anche se il Gianicolo era la parte più alta della città, quindi era più difficile da conquistare, mentre la parte bassa si presentava più facile, ma questo non si faceva perché c'era l'esperienza del 48 francese, dove le barricate avevano bloccato qualsiasi movimento degli eserciti, e la stessa cosa era successa nel 1848 a Milano con le famose 5 giornate. Bastava bloccare delle strade e quindi l'artiglieria, la cavalleria avversaria veniva bloccata, non si muoveva più. Quindi la paura di Oudinot, che era il comandante in capo dell'esercito francese, era quella che se avesse aggredito Roma dal basso poteva rimanere intrappolato nei vicoli della città. Quindi decisero di attaccare la parte più alta, oltretutto avevano un parco d'artiglieria potentissimo, e il discorso era: una volta conquistata la cima della città, e da lì avrebbero avuto il dominio assoluto, quindi con i cannoni avrebbero raso al suolo tutta la città. E così infatti fu, e a un certo punto cominciarono a bombardare in modo indiscriminato, in modo terroristico la città. Alcune bombe arrivarono addirittura a colpire il Campidoglio, il Palazzo della Cancelleria, cioè tutti i luoghi storici della città, tant'è vero che un corpo, i diplomatici che stavano a Roma, a un certo punto fecero un incontro tra di loro e decisero di mandare al generale una lettera di protesta perché si stava distruggendo la città più bella del mondo. La risposta francese qual è stata? Che la colpa era dei romani perché non si arrendevano, si difendevano. Cioè, questo ci ricorda qualche cosa dei tempi attuali. Se i romani si fossero arresi immediatamente, ovviamente non ci sarebbero state le cannonate. Quindi, per dire come le cose poi si ripetono sempre nella storia. Ecco, e a Roma, nonostante i bombardamenti, ogni giorno si riuniva l'Assemblea legislativa e elaborava la Costituzione, che è la Costituzione più avanzata che ci sia stata in Europa in quegli anni. Ed è questa Costituzione la base della Costituzione repubblicana italiana del 1948. Nella quale vengono esposti tutti i principi fondamentali di una democrazia liberale. Abbiamo tutto: la libertà di stampa, la libertà di pensiero, di associazione, la fede religiosa non è ostacolo per quanto riguarda i posti pubblici e quant'altro, tant'è vero che questo libererà gli ebrei da tutte le sottomissioni e vincoli che avevano, tant'è vero che molti di loro entreranno nella vita politica italiana. Ricordiamo la famiglia Nathan, per esempio. Penso alla famiglia Nathan, un nipote di quale diventerà sindaco di Roma, che probabilmente è stato considerato il miglior sindaco di Roma. La famiglia Nathan, diciamo che si occupò fortemente anche di Mazzini, Tant'è vero che quando lui morì, venne a morire a Livorno, proprio a Pisa, proprio presso la famiglia Nathan, sotto falso nome, e una famiglia di grandi patrioti. Quindi la Costituzione soprattutto è un esempio formidabile per quello che era appunto il prosieguo della vita. Tutti i grandi protagonisti di questi 5 mesi di Repubblica